Allora, questa è la lezione del 12, del 13 gennaio del 2011. Allora, il tema intorno a cui stiamo girando da un po' e che però forse non ho ancora affrontato in maniera esplicita, quindi adesso oggi cerchiamo di esplicitarlo un po' di più leggendo qualche cosa da questi libri di Flusser. Allora, il tema è quello del rapporto tra la parola e l'immagine. Allora, credo di aver, se ho già detto quello che sto dicendo adesso, quello che dico adesso funziona come riepilogo di quello che abbiamo già detto, quindi insomma lo ripetiamo che non fa mai male. Allora, diciamo, sia l'immagine che la parola sono due dispositivi, due strumenti, due apparati. Adesso vediamo il termine apparato, poi ne parleremo meglio leggendo. Comunque sono due sistemi i quali in qualche modo creano un raddoppiamento della realtà. O si dice, il termine che si può usare genericamente è quello di rappresentazione, creano una rappresentazione della realtà. La realtà è ciò che noi, adesso userò indifferentemente due termini che sono un po', diciamo, diversi. Allora, forse più che il termine realtà è meglio usare il termine esperienza. L'esperienza è l'insieme di avvenimenti, eventi che costituiscono la vita di una singola persona e delle persone che sono in relazione con lei, con questa persona. La questione delle, ovviamente, relazioni è fondamentale perché l'essere umano, come quasi tutti i mammiferi, non è Bernardo l'Eremita, quindi non vive da solo, vive sempre in gruppi. Quindi fa parte dell'esperienza, una delle dimensioni fondamentali dell'esperienza è quella, diciamo, relazionale. Comunque l'esperienza è qualcosa di molto complesso perché comprende altre persone che stanno vicino a noi, che fanno delle cose con noi. Comprende azioni che noi facciamo, azioni, quindi movimenti del corpo che modificano in qualche maniera quello che si sta intorno, l'ambiente, diciamo, le reazioni alle nostre azioni da parte di altri esseri e quello che noi costruiamo con la gran parte di queste nostre azioni. Quindi, per esempio, la costruzione di manufatti, perché gli esseri umani fanno questo genere di cose qua. Prendono dei materiali dal mondo, diciamo, naturale e li modificano. Ora, tutto questo insieme di cose, quindi tutto l'insieme, ivi compresa ovviamente l'attività linguistica, certo, perché siccome l'essere umano è caratterizzato anche da questa dimensione, cioè dal fatto che parla a delle altre persone, le altre persone gli rispondono, capiscono quello che dice più o meno. Quindi questo insieme di cose, questo insieme di dimensioni che costituisce la nostra esperienza, quindi le azioni, i gesti, la produzione verbale, cioè linguistica, e i manufatti, gli oggetti che noi creiamo, tutto questo e le relazioni complesse che poi ci sono tra queste cose che noi facciamo, tutto questo può essere in qualche modo replicato, rappresentato con strumenti di vario tipo. Il linguaggio è sicuramente uno strumento per duplicare l'esperienza. In che modo il linguaggio duplica l'esperienza? Per esempio, quando io racconto a un'altra persona le cose che ho fatto precedentemente, qualche ora prima, un giorno prima, due giorni prima, una settimana prima, se me lo ricordo, 10 giorni prima, eccetera, eccetera. Oppure quando racconto a un'altra persona. Se uso il linguaggio, la dimensione relazionale è sempre implicita. Cioè, sono pure quelli che parlano da soli, però insomma. Anche chi parla da solo in realtà presuppone un interlocutore ideale, no? Che... Quindi parlare vuol dire sempre relazionarsi a un'altra persona, indirizzarsi a un'altra persona. Quindi io posso raccontare quello che ho già fatto, raccontare quello che voglio fare. Domani voglio andare a comprarmi un paio di pantaloni perché non ne ho più e devo... Domani voglio andare a trovare il mio amico. Domani voglio mettere una bomba sotto il culo di Berlusconi. Era un puro esempio. Cioè uno può, quindi no, se quello che ho fatto, quello che devo fare, cioè racconto, nel racconto io duplico o una realtà già avvenuta o esprimo il progetto di una realtà a venire. Quasi tutte le cose che faccio con il linguaggio, a meno che non si tratti di, a meno che questa mia produzione verbale non abbia dei contenuti troppo astratti, se io cerco di raccontarvi cos'è per me la bellezza, forse è un po' più difficile fare quello che dico adesso, ma su molte altre cose c'è un modo alternativo di comunicare con un'altra persona, invece che usare il linguaggio. In alcuni, diciamo, in alcuni casi. Ma nel linguaggio ci sta anche la scrittura. La scrittura viene molto dopo, la scrittura è una cazzatina, no, viene sì. Molto dopo, noi, perché per noi è importante. Diciamo, in prima approssimazione della scrittura non è altro che un mezzo di traduzione del linguaggio parlato, però senza il linguaggio parlato la scrittura non potrebbe esistere, quindi tutto quello che diciamo per il linguaggio parlato si dovrebbe poter dire anche con certe specificazioni, ma insomma in prima approssimazione possiamo dire che vale anche per la scrittura, certo. Mentre c'è un metodo, c'è un modo, ci potrebbe essere un modo che è totalmente alternativo a quello di parlare, che è quello di creare delle immagini. Delle immagini artificiali, no? Quindi come quelle che noi siamo sicuri che gli esseri umani creano immagini almeno da 40-50 mila anni fa, quindi chiaramente dopo che hanno cominciato a parlare. Anche qui noi non sappiamo quando l'uomo ha cominciato a parlare, ma sicuramente parla da almeno da quando c'è Homo sapiens nella sua ultima versione, cioè da 250 mila anni circa. Mentre siamo sicuri che crea immagini solo da 50.000. Ma perché non abbiamo evidente, quindi come dire, non possiamo essere sicuri. Però diciamo, per quello che ne sappiamo noi, l'immagine è posteriore al linguaggio. Però almeno a partire da un certo punto della sua storia, l'uomo ha cominciato a creare immagini. Creare immagini vuol dire creare delle modificazioni su una superficie bidimensionale, E creare queste modificazioni, quindi questi oggetti, diciamo, virtuali, no? In modo che assomiglino a degli oggetti reali che noi abbiamo visto, per esempio animali, piante, altri esseri umani, eccetera, eccetera, eccetera. Entrambe le operazioni sono operazioni complicate, sia quella del linguaggio, sia quella della diciamo, creazione di immagini, però agiscono con modalità molto molto diverse. Anche questo, se l'ho già detto, questa è effettivamente un riepilogo di cose che abbiamo già detto. La simbolizzazione del linguaggio, la simbolizzazione, diciamo, la creazione di rappresentazioni iconiche, quindi di immagini, funziona prevalentemente con un modello analogico, cioè una rappresentazione è qualche cosa che collega un ente rappresentato a un altro ente rappresentante, ok? C'è un bisonte vero che si aggira lì fuori di questa grotta nella località che dopo molti millenni si chiamerà Lascaux, e ci sono io, coglione di un Homo sapiens di 38.000 anni fa, che attraverso carbonelle e altre robe traccio dei segni sulla parete della caverna per creare un'immagine che rassomiglia a quel cazzo di bisonte là fuori. Il bisonte là fuori è il rappresentato. Il disegno che io faccio del bisonte è il rappresentante. Come funziona il rapporto rappresentante-rappresentato nell'immagine, cioè nel disegno, nella pittura, eccetera? Funziona in maniera analogica. Ciò che io disegno sul muro deve assomigliare in qualche modo al bisonte vero che sta di fuori, in modo che qualsiasi persona, anche il mio amico più cretino, che guarda quello che io ho tracciato sul muro, dice: ah, questo è un bisonte. Non è così semplice, perché voi sapete tutti benissimo, chi non sa disegnare, per esempio come me, per rendere la presenza, se crea scarabocchi non ce la farà mai a fare davvero, o se ce la fa semplicemente perché ci sono millenni ormai di un certo codice, per cui anche i più negati per il disegno riescono in maniera molto rozza a fare qualcosa che assomiglia, anche se io faccio l'omino testone. L'omino testone. Questa roba qui non è un gran bel disegno di essere umano, però siamo tutti ormai abituati, c'è un codice per cui se faccio un cerchio, una linea lunga, due linee più o meno ortogonali o quasi verso la parte alta e due linee divergenti verso la parte bassa, questo è un essere umano. Molto probabilmente se voi andate da un boscimano prima che i boscimani incontrassero un uomo bianco o da una posizione australiana, e gli fate questa roba qua, quello non dirà che questo è un essere umano, non perché è scemo, perché magari gli manca, perché lui magari disegna in modo diverso, c'ha altre convenzioni, la sua cultura lo porta, però per la nostra cultura più o meno questa roba funziona. Allora, anche in questo caso, cioè anche nel caso del disegno più rozzo, del modo più, no, più rozzo, in qualche modo è sempre un codice di analogia, di somiglianza quello che funziona. Questa cosa qua è un essere umano perché quell'insieme di righe assomigliano, ripetono fedelmente dal punto di vista della disposizione nello spazio di questi enti, l'originale, cioè il, come dire, modello o il rappresentato. Se io devo parlare con il mio amico e gli devo descrivere, diciamo che avevo di fronte due ragazze che prendevano appunti mentre io parlavo. Avevano tutte e due il viso abbastanza tondo, così, una i capelli chiarissimi, molto chiari, l'altra un po' più scuri, più castani, uno aveva gli occhi chiari, grigio-azzurri, no? E l'altra gli occhi più, no, anche lei grigio-azzurri, più o meno, però era un grigio un po' diverso, una era vestita, una aveva una maglietta bianca, insomma, io metto lì e vi descrivo a voi due, al mio amico che non vi ha mai visto. C'è una somiglianza tra gli strumenti che uso per descrivere voi due e voi due? No, non c'è nessuna rappresentanza. Il codice col linguaggio funziona ad un livello totalmente diverso. Richiede un grado di astrazione molto maggiore rispetto a quello dell'immagine. Anche questa richiede una certa, diciamo, astrazione, però per quanto sia astratta l'immagine, in qualche maniera nel codice di comprensione dell'immagine rimane questa idea della somiglianza, dell'analogia. C'è una somiglianza fisica, reale, una somiglianza percettiva, sono i miei occhi che vedendo questo... Quando io racconto al mio amico, il mio amico potrebbe pure essere cieco, potrebbe non vedere un cazzo, gli basterebbe avere l'udito, quindi non sono gli occhi, e lui nella sua mente però si formeranno due immagini sicuramente molto diverse da come siete voi due, quasi sicuramente, perché raccontare, però in cui qualche somiglianza c'è. Per esempio, se io gli dico chiaramente che una ha una maglia nera e l'altra ha una maglia chiara, nelle due immagini mentali del mio amico una sarà chiara, magari non sarà esattamente quel colore perché non sono riuscito a descrivere esattamente questo bianchino con dei con queste pagliucce argentate, diaboliche, che chissà come cazzo hanno fatto, ok, però, glielo dico così, l'altro non gli posso descrivere esattamente le coste della maglia, eccetera, eccetera, a meno che non sia uno che sa fare la maglia, gli dico guarda, fai così, prendi due prese a segno rovescio, un diritto, un rovescio, e gli descrivo, se questo sa fare la maglia, arriva. Ma se no, come descrizione normale, ma non c'entra più niente l'analogia, io sto trasferendo tutta la mia esperienza visiva, dei miei occhi che vedono voi due e sono in grado di, e vi vedo in maniera immediata, no? Cioè non è che devo spiegarmi come è fatta lei, come è stata tu. Però quando devo trasferirlo su di un registro verbale utilizzo una serie di convenzioni totalmente arbitrarie. Se io parlassi inglese, quello che mi esce come output linguistico sarebbe totalmente diverso e probabilmente anche alcune delle categorie mentali sarebbero un pochino diverse, perché magari l'inglese non ha esattamente gli stessi vocaboli dell'italiano per indicare i colori, per esempio, no? E quindi, se, per dirne una, se io uso il termine bianco o un colore chiaro forse andrebbe già bene, perché dico light color in inglese e va bene, ma se io dico bianco in italiano, forse quello che mi sente vagamente indovina di com'è, non è proprio bianco, certo, è un grigio chiarissimo, insomma, ma quasi bianco di fatto, no? Probabilmente in inglese io dico white, lui ha un'altra idea, è come, non so, l'eschimese che ha un altro, cioè, e quindi cambia molto, e non c'è alcun modello di tipo analogico, non c'è una somiglianza effettiva reale, quindi voi capite che i due registri sono completamente differenti. Qual è il più potente dei due registri? È difficile dirlo, non si può dire se sia più potente la parola o se sia più potente l'immagine. La produzione della parola richiede una quantità di condizioni, di precondizioni, per poter essere prodotta e compresa dall'interlocutore, probabilmente maggiore di quella che non richiede l'immagine, no? Però una volta, come dire, acquisita questa abilità di collegare certe catene di suoni con certi oggetti o con certi eventi o con certi comportamenti o con certi concetti in genere, una volta acquisita questa, la produzione verbale risulta molto più facile, molto più semplice. Se io devo descrivere voi due che ho di fronte a me in questo momento a un'altra persona, lo posso fare anche se sono quasi un demente, anche se le mie facoltà intellettive sono molto basse, anche se il mio quoziente di intelligenza è molto basso, anche se non faccio altro che ubriacarmi da mattina e sera o se mi faccio 52 canne al giorno e quindi sono costantemente brasato e non riesco. Se mi impegno, non c'entra nel mio grado culturale, qualsiasi essere umano è in grado vagamente di descrivere una qualunque persona, un qualunque oggetto, raccontare una situazione, e questa abilità di collegare delle catene di suoni con degli oggetti, degli eventi, dei comportamenti, è qualcosa che gli esseri umani acquisiscono, a essere pessimisti, entro i primi 2 anni di vita. Si impara a parlare entro i primi 2 anni di vita, in genere entro il primo anno, anno e mezzo, vi dico, per essere pessimisti i primi 2 anni, lo si acquisisce in modo permanente e lo si acquisisce con una abilità che anche nei casi più bassi è sufficiente per farsi capire. Cioè, la facoltà di un linguaggio è qualcosa di universale per gli esseri umani. Tutti sono in grado di acquisirla, e ripeto, una volta acquisita è semplicissimo usarla, non è affatto complicato. Ho fatto apposta quello sgorbio sulla lavagna perché tutti quanti sappiamo che per quanto riguarda invece le abilità di creazione di una immagine sono molto più complicate. non si acquisiscono, non le acquisiscono automaticamente tutti i membri della specie umana, non le acquisiscono nel primo anno o nei primi 2 anni di vita, ci vogliono applicazioni, studi, diciamo, in maniera a volte anche selvaggi, uno può avere una sua diciamo, predisposizione particolarmente diciamo particolarmente particolare insomma per il disegno e può farlo anche, però in qualche modo anche chi abbia la predisposizione se non fa un po' di esercizio e non si esercita non farà mai un diciamo un buon disegno. Quindi capite che dal punto di vista dal punto di vista del codice, quindi del tipo di regole che collegano il rappresentante con il rappresentato, siamo su due piani diversissimi. Dal punto di vista dell'acquisizione dell'abilità o della capacità anche, perché la capacità di creare immagini, come dire, il linguaggio è molto più egualitario. Io capisco il linguaggio perché so parlare. Ci sono solo alcuni casi limite, cioè c'è il caso del muto che comprende il linguaggio ma per una serie di motivi fisiologici non lo comprende. Anche il sordo muto, cioè anche quello che è sordo, in realtà impara lo stesso perché guarda i movimenti delle labbra, guarda le cose, quindi capisce il linguaggio pure lui, anche il sordomuto non è totalmente escluso come noi pensiamo dalla comunità linguistica. Poi la replica in qualche modo, il linguaggio dei segni, eccetera, ma voi insomma, li sentite quando se ne avete mai incontrati, fanno delle subvocalizzazioni, poi non gli esce il suono perché non hanno le cose, ma sono in grado di articolare, quindi loro parlano, pensano parlando, come noi, cioè sono esseri linguistici come noi, insomma, sordomuti. E quindi vedete, il linguaggio è una abilità universale della specie umana e produrre linguaggio e comprendere il linguaggio dipendono dalla stessa abilità. Riconoscere un disegno non vuol dire saperne produrre uno uguale, tutti sono capaci di guardare le tre grazie di Raffaello e di sapere di che cosa si tratta, ma non tutti sono capaci di fare le tre grazie di Raffaello anche in modo diverso da come l'ha fatto lui. Quindi nella produzione dell'immagine le condizioni per la produzione non coincidono con le condizioni per la fruizione, si tratta di cose totalmente diverse. Quindi da questo punto di vista il linguaggio dell'immagine è universale certamente dal punto di vista quanto a comprensione, universale relativamente a certe culture, ripeto, perché voi sapete bene che messi di fronte a un quadro o a una fotografia dell'Occidente, cioè prodotto nelle culture occidentali, molti membri di culture orali non occidentali che non abbiano mai avuto contatti con l'uomo bianco non sono in grado di riconoscere, quindi vuol dire che ci vuole un certo addestramento anche. Però diciamo che è, nell'ambito di una certa cultura è universale la capacità di comprendere l'immagine, di leggere l'immagine, ma non è altrettanto universale la capacità di produrla come lo è invece per il diciamo, linguaggio. Quindi queste sono già tre differenze molto forti come potremmo provare perlomeno provvisoriamente a riassumere queste differenze tra il codice comunicativo dell'immagine e il codice comunicativo della parola. Una prima cosa che ci può venire in mente, che insomma, però probabilmente riassume se non tutte molte di queste caratteristiche, potremmo dire che è questa. L'immagine è un sistema rappresentativo più immediato della parola. Attenzione, più immediato non vuol dire che sia più semplice, cioè per un essere che abbia imparato a parlare è altrettanto immediato capire il significato di una descrizione che guardare la foto o il disegno. Però uno si dimentica in genere che per diciamo, per acquisire il codice di comprensione del linguaggio, uno ci ha messo un certo tempo, limitato, e siccome ha cominciato a sentire parlare la gente sin da quando è nato, ecco che entro il primo anno e mezzo di vita, la competenza linguistica è stata già raggiunta. Diciamo, entro i primi 3 anni di vita il bambino parla una lingua più o meno complessa, cioè avrà meno parole, avrà meno lessico, ma la grammatica non sarà così perfetta, ma nell'essenziale i meccanismi della propria lingua li ha già compresi, e sono meccanismi complicati, perché non sono così semplici in tutte le lingue, quale in un modo o l'altro, diciamo, non esistono. L'idea che i popoli cosiddetti primitivi parlassero lingue bunga bunga è una cretinata, cioè tutte le lingue sono complicate, ognuna a modo suo. Mentre per la comprensione di una immagine occorrono sì certi codici, ma in misura più limitata che non per la cosa linguistica. Perché? Perché il meccanismo fondamentale dell'immagine è quello della somiglianza, della analogia visiva. Sono sempre gli occhi che funzionano, detto in altri termini, quando io vedo un'immagine, non è proprio così, ma insomma in prima approssimazione può funzionare, non ho bisogno di costruirmi un'immagine mentale, Cioè se vedo la cena di Emmaus di Caravaggio, sono lì davanti, la vedo, o perché sono andato nel museo in cui sta, o perché c'è un libro in cui c'è una foto riprodotta, adesso insomma. C'è Cristo, ci sono i due apostoli, ci sono le luci messe in un certo modo, la mia comprensione di quell'immagine è immediata, poi ci posso riflettere sopra, ma per vederla non ho bisogno di farmi delle immagini mentali. Se io sto leggendo il pezzo degli Atti degli Apostoli che descrive l'apparizione di Cristo con i due discepoli alla cena di Emmaus, io sto leggendo delle parole su un foglio stampato o scritto a mano, in genere stampato perché stanno su libri stampati, e io mi devo ricreare un'immagine mentale, Adesso a voi non vi capita probabilmente perché rischiate di avere visto per primi i film delle cose, ma quante volte a me, che ho letto molti libri prima di aver visto il film da cui sono stati tratti, quante volte mi è capitato di essere deluso da un film, perché non corrispondeva all'immagine mentale che io mi ero fatto leggendo il libro. Quando questo non accade è perché attraverso un complesso sistema culturale, specialmente ai bimbi, i primi libri che sono a leggere sono libri illustrati, ok? Allora, pensate a Pinocchio, ma per esempio Pinocchio, a me vi faccio l'esempio con Pinocchio. Allora io leggo Pinocchio, che ho 5 anni, 4, non mi ricordo più, 5, 6 anni, uno dei primi libri che ho letto, credo andando ancora prima di andare a scuola, perché avevo imparato a leggere anche un po' prima di andare a scuola, quindi mi leggo Pinocchio, e ho una edizione illustrata di Pinocchio, se non vado errato, con le illustrazioni di Carlo Chiodi, una delle prime illustrazioni della cosa di Pinocchio, quindi dove c'è Pinocchio, bianco e nero, quindi china, matita e china, bianco e nero, dove Pinocchio è questo tipo tutto allampanato, magrissimo, un pezzo di legno con un farsetto, con un gilet, come cazzo si chiama, con un panciotto, insomma, con il cappello, con il cappello a cono lungo, piuttosto lungo, con le giunture delle mani, comunque fatto così, allampanato, lungo, il naso più o meno lungo, eccetera. Quello per me è Pinocchio. Dopo un anno o due che ho letto il libro, esce il film di Walt Disney e la mia mamma mi porta a vedere il film. E io mi ricordo ancora il senso di straniamento e di incomprensione. Io ho passato metà del film a dirmi: ma questo non è Pinocchio, perché c'ha dei calzoncini tirolesi che non li ho mai visti, Chiodi non aveva dei tirolesi. Allora, nell'immaginario disneyano molto probabilmente la gran parte di quelli che hanno visto Pinocchio negli Stati Uniti o nel resto del mondo non aveva mai letto il libro, quindi per lui il primo Pinocchio è quello che ha visto al cinema. E probabilmente se voi gli fate vedere una illustrazione di Chiodi a questo bambino che ha visto, o anche questa adulta che ha visto per prima il film che legge il libro, lui avrà, come dire, l'impressione opposta. Se è grande avrà i suoi meccanismi culturali per rimediare, ma se è piccolo probabilmente avrà in senso inverso quello che è capitato a me. Dirà, questo di Chiodi o questo di Chiostri, forse Chiostri, non Chiodi. Non mi ricordo, comunque andate a controllare che su Wikipedia trovate tutto, mi sembra che fosse Chiostri, non è Chiodi, forse c'erano tutti e due, però adesso non mi ricordo chi era, sinceramente. Però c'era comunque, era so, fatto così. Ma io, cioè, per me è stata una roba terribile vedere Walt Disney. Ragazzi, questo non è Pinocchio, a parte che la storia era un po' diversa, eccetera, ma perché vedevo che alcune cose c'erano uguali, altre non erano uguali, ma soprattutto era l'immagine di questo. Intanto era basso così, cazzo, e io il mio il Pinocchio era alto tanto quanto Geppetto, se non di più, era alto quanto la volpe, più alto del gatto, per dire, no? Il gatto era più basso, la volpe era più lunga, cioè, c'era una... Allora, Don Chisciotte ormai c'è una sorta di convenzione iconica su, diciamo, Don Chisciotte, si prendono alcune delle robe messe nel libro, si mettono dentro, poi certamente il Don Chisciotte di Doré è diverso da quello di un altro, però anche lui è sempre magro, c'ha questo elmo, questa pseudo elmo, questa bacinella da barbiere in testa, la corazza rondinante, Sancho Pancia e grasso l'uovo, ok. E uno si abitua, quando uno fa un film su Don Chisciotte, 90 su 100 cosa fa? Rispetta queste cose iconiche, quindi per fare l'attore che fa Don Chisciotte è difficile che prendano, che ne so, Buazzelli o Lino Banfi o uno grasso, piglieranno uno magro, lampanato e lungo, perché Don Chisciotte è quello, perché lo scrive Cervantes, dice era uno lampanato, là certo, poi quando uno disegna fa la cosa. Allora capite che però di per sé se uno non ha visto immagini di un certo testo e se le ha create lui nella testa, è possibile che le immagini mentali collegate con uno stesso testo siano diversissime, perché uno c'ha un bello scrivere a uno allampanato, magro, alto, eccetera, va bene, ma magro, alto, uno, io me lo posso immaginare in 50 modi, piuttosto che... Però se poi si è imposto un certo modello, come dire, si è diffusa più di altre una certa immagine, quella è l'immagine, insomma. Io ho imparato la mitologia greca la prima volta, le prime cose che ho letto, che ero molto piccolo, su un libro illustrato, e quindi in qualche modo e mi è andata bene che l'illustratore di quel libro era... così rimasto abbastanza fedele alle poche immagini, che poche, insomma non sono poche, ma alle uniche immagini che ci sono rimaste della mitologia, che in genere sono le pitture vascolari, perché non abbiamo più nessuna pittura, che le pitture vascolari ci sono. E sono anche abbastanza, sia pure, sono praticamente disegni, perché c'è una linea unica, cioè non so, sembrano fumetti, sembra la linea Claire, insomma, dei belgi. Però sono anche complesse come cosa. Bene, se mi fossi mai imbattuto in un altro libro che avesse fatto, che ne so, dei lavori più di fantasia, su delle ricostruzioni fantastiche su questi diciamo eroi e dei della, diciamo, letteratura greca, della mitologia greca, molto ovviamente poi quando da grande fossi entrato in contatto eventualmente con le immagini originali delle statue o delle pitture vascolari, mi sarei, e comunque sempre per restare sull'autobiografia, perché sono le cose che vi posso... Io la prima volta che ho visto per la prima volta delle riproduzioni di affreschi di Pompei, che sono fra le poche immagini dipinte che ci sono rimaste dell'epoca classica, per questa particolarissima situazione che voi sapete, l'eruzione che praticamente congela la città, eccetera, eccetera. E sono rimasto molto, come dire, perplesso, perché non erano il genere, le pitture con Pompei non sono in genere, almeno per me, non erano il genere di disegni che avevo visto, disegni di fantasia, ma aderenti più o meno, che ricostruivano magari delle scene di vita quotidiana romana o greca, eccetera, eccetera. Ancora recentemente, quando fate vedere il film 300, che immagino tutti voi conosciate, mi sentivo a disagio, perché quel modo che ha usato Miller di ricostruire l'aspetto di un guerriero greco del IV secolo a.C., fine del V, IV secolo a.C., non corrispondeva esattamente, ed era un'abitudine. È ovvio che uno, quando poi diventa grande, è capace di dire, vabbè, insomma, questo è un modello, quello è un altro, capisco. Però una qual, vi assicuro, alla mia tenera età, insomma, quindi l'ho visto passati i 60 anni da un pezzo, certamente non sono stato colpito come mi ha colpito il Pinocchio di Walt Disney quando ero piccolo, è ovvio, però sotto sotto una qualche sensazione di vaghissimo disagio ce l'avevo, perché non erano i greci a cui la mia memoria visiva è ormai abituata. Quindi anche nella fruizione dell'immagine funzionano archetipi, stereotipi, cioè cose che tu hai visto, riguardato, e che da come ti si presentano in un modo oppure nell'altro, tu gli hai costruito delle cose sopra nella tua mente e nella tua testa. E quindi, siccome nella civiltà occidentale, da Lascaux in poi, la parola e l'immagine hanno comunque un certo tipo di associazione, ovviamente adesso io vi parlo come se non ci fossero cose ancora più radicali di associazione con l'immagine, che sono ovviamente la televisione e tutto l'audiovisivo in genere. Probabilmente chi ha ascoltato per la prima volta una canzone guardando il video collegato, quelle immagini gli rimangono associate. A me capita per alcune canzoni di Madonna, perché le ho viste per la prima volta o su YouTube o su Video Music tanti anni fa. Non mi capita per gli Eurythmics, perché li ho sentiti, ho prima sentito la musica e dopo ho visto i video, allora ho un'impressione della musica e della voce di Annie Lennox che non si identifica per me sempre con quella faccia, cioè nel senso che ho conservato vagamente l'impressione che mi ha fatto, senza sapere neanche, perché poi io, come dire, essendo sempre stato un ascoltatore di musica molto distratto, poi diciamo, negli anni 80 ascoltavo molta più musica di ora e guardavo anche più video, certo. Ma insomma, però in quel caso lì, diciamo, mi è capitato una vita che non erano collegati, ho visto l'immagine dopo, in altri casi no, allora, ma se la vedi subito ti rimane collegata. Mo non mi ricordo il titolo, ma il video della canzone di Madonna in cui si fa tutti i tatuaggi sulle mani, quello di Cunningham, per me, ecco, io sento quella musica e vedo quelle immagini, non ci sono Cristi, non riesco ad immaginarmi nessun'altra immagine che non quella, perché è quella che ho visto prima. Quindi c'è un modo di associare parola e immagine, però se cerchiamo di fare un lavoro, come stiamo cercando di fare adesso, di comprendere quali sono i codici differenti tra parola e immagine, dobbiamo evidentemente stabilire che si tratta di codici diversissimi. I principi che sono alla base della comprensione, della decodifica, chiamiamola pure, diciamo pure se c'è un codice, anche se poi vi devo dire qualcosa sul concetto di codice, perché probabilmente il codice è un po', come dire, limitato, insomma, o perlomeno coglie solo certi aspetti della comunicazione, sia verbale che, diciamo, iconica. Comunque, dato per, senza preoccuparci di questo, dato per scontato che ci sia un codice, cioè che ci sia un insieme di regole abbastanza preciso e codificato, appunto, cioè stabilito, algoritmizzabile, che ci sia un algoritmo che mi dice interpreta questa immagine così, interpreta questa cosa così, i due codici nel caso della comunicazione visiva e nel caso della condizione parlata, della condizione verbale, sono diversissimi, per certi versi opposti, per certi versi opposti. Allora, detto tutto questo, quindi capiremo facilmente come mai, perché ci sia, almeno nella storia della cultura occidentale o delle culture ad essa vicine, ci sia stato storicamente una rivalità tra questi due regimi, strumenti o regimi comunicativi. E la cultura occidentale abbia in qualche modo e con alcune mediazioni che però adesso vedremo, come dire, è come se, prendetela con molta cautela, ma è come se nell'Occidente si fosse dovuto decidere a un certo punto quale delle due forme comunicative era più importante, quale esprimeva meglio i tratti più importanti e i tratti caratteristici della cultura intesa in senso lato, cioè dei codici che regolavano quindi genericamente la vita. Ho detto è come se si fosse trattato di decidere quella parte, perché in realtà probabilmente non è stato mai deciso. Però per esempio ci sono casi di culture che invece hanno fatto questa scelta in modo più netto di quella occidentale, in cui quindi per esempio questa rivalità e questo, come dire, modello è molto più chiaro. Si tratta, pensiamoci bene, di entrambe le due culture, diciamo, i due modelli culturali legati alle altre due religioni monoteiste. Quando dico Occidente non voglio dire soltanto l'Europa o soltanto quelli che, perché in realtà voi sapete che il monoteismo ci viene da qualcosa che non è l'Europa, è una zona molto vicina all'Europa, ma viene da un popolo che non parlava e non parla una lingua indo-europea, che è il popolo ebraico, parla una lingua semitica, quindi una lingua affine all'arabo, come famiglia, diciamo, linguistica, che però poi ha influenzato l'Occidente, come qui, perché il cristianesimo che deriva da lì. Ora, fra le tre grandi religioni monoteiste, che si chiamano non a caso, guardate, religioni del libro, religioni in cui ci sono dei testi scritti, la Bibbia, l'Antico, diciamo, Testamento, l'Antico e il Nuovo Testamento insieme per il cristianesimo e il Corano per gli ebrei, sono tre libri i quali rappresentano l'origine, il cardine, il codice, il mettere nero su bianco dei principi fondamentali di quella religione e di quella cultura. Bene, di queste tre, delle tre che sono le uniche tre che ci sono al mondo, non ce ne sono mai state altre di monoteiste, perché ovviamente il monoteismo è per certi versi una aberrazione, l'idea che ci sia un solo Dio non è così scontata, cioè vada per noi, ma insomma nella stragrande maggioranza delle culture del mondo Dio non è mai stato solo uno, sono stati sempre tanti. Però per una serie di motivi, almeno due di queste, diciamo, religioni, le ultime due monoteiste, si sono, diciamo, rivelate religioni di grande impatto, si sono diffuse nel resto del mondo, prima il cristianesimo e successivamente anche l'islamismo, l'unico è l'ebraismo che non ha mai, che si è diffuso perché ha diffuso i propri membri che sono stati perseguitati, quindi la diaspora, ma diciamo delle tre grandi religioni monoteiste, diciamo, l'ebraismo è l'unico che ha una vocazione, che ha una scarsa vocazione alla conversione, in qualche maniera è una religione, diciamo, di conversione pure essa, pure, come dire, ebreo, però per una serie di motivi, insomma, l'ebreo non vuole convertire nessuno all'ebraismo, mentre invece il cristiano e l'islamico hanno questa strana mania di che tutti dovrebbero diventare cristiani o islamici, perché sono. Ebbene, di queste tre grandi religioni, due, cioè la prima e l'ultima, l'ebraismo e l'islamismo, hanno, come dire, chiaramente deciso tra il regime verbale e quello iconico, a favore di quello verbale, addirittura mettendo fuori legge le immagini, perlomeno le immagini mimetiche, le immagini che rappresentano oggetti. Non solo non si può rappresentare il volto di Dio, ma per l'islamico, per esempio, non si possono rappresentare neanche esseri viventi, non è giusto rappresentare esseri viventi. Adesso le cose sono molto cambiate, ovviamente, perché con la mescolanza delle robe, insomma, la diffusione della fotografia, della televisione, eccetera, cambia molte le cose, ma storicamente voi non trovate in nessuna moschea islamica, non solo non trovate ritratti di non trovate cose di Dio come trovate in tante chiese, il vecchio con la barba bianca, il triangolino sopra la testa, eccetera, eccetera, ma non trovate immagini di persone, trovate, certo c'è una produzione iconica, ma le immagini della civiltà islamica sono quasi totalmente immagini astratte. Poi, siccome la civiltà islamica, questo riguarda prevalentemente gli arabi, cioè la cultura nella quale è nato e si è sviluppato l'ebraismo. Poi certamente l'islamismo. Quando la religione e la cultura islamica si sono espanse ad altre culture, ad altre popolazioni, ad altre cose, che non avevano quella storia, quella ebraica, è chiaro che c'è stata una contaminazione. Per esempio nella produzione dei persiani o dei turchi, che sono due popolazioni convertite all'islamismo, ma non arabe, né i turchi né i persiani sono arabi, né gli iraniani attuali. Gli iraniani parlano una lingua indoeuropea, sono nostri cugini dal punto di vista linguistico e anche culturale, insomma, cioè, i turchi anche. Entrambi avevano, prima di convertirsi all'Islam, una produzione di immagini molto, se andate a Istanbul al museo trovate una bellissima collezione di immagini, per esempio di miniature, dei codici manoscritti, sia persiane che, diciamo, turche. E poi dopo hanno adottato l'alfabeto arabo, la scrittura araba, per trascrivere la loro lingua, però gli è rimasto, nessuno è mai riuscito a mettere fuori legge le immagini in Iran, in Persia e in Turchia, anche quando questi sono stati, mentre nel mondo arabo è ancora oggi così. Quindi in qualche modo, diciamo, la scelta un po' radicale, se vogliamo, un po' anche estremista, un po' integralista, no? Delle culture ebraica e araba, di escludere l'immagine, no? Ovviamente la cosa si è, per l'ebreo la cosa deriva dal fatto, da quale fatto? Dal fatto che la religione ebraica, che è stata una religione storicamente minoritaria, quindi monoteista, in una zona del mondo, il Medio Oriente, circondata da invece religioni e culture politeiste. L'autoconsapevolezza di essere diversi, quindi di essere, costituiva per l'ebreo classico, per l'ebreo dal 1000 avanti Cristo sino alla conquista romana più o meno, costituiva un elemento di orgoglio. Le altre religioni venivano identificate con la cosiddetta idolatria. Allora, cosa vuol dire idolatria? Eidos, oltre che idea, vuol dire immagine in greco, quindi l'idolatria, la tria vuol dire venerazione, la idolatria è la venerazione dell'immagine. La critica dell'ebreo al fenicio, al cananeo, al filisteo, a tutti i popoli con cui era entrato in contatto, con cui aveva combattuto delle guerre, era stato a volte sconfitto prima che arrivasse Davide, che Saul e poi Davide che fondano il regno di Israele, che anche militarmente 5-6 secoli prima di Cristo ha, no, 7 secoli prima di Cristo ha una certa forza, insomma, prima erano per botte solo da tutti, cioè schiavi in Egitto, schiavi a Babilonia, cioè, poi i cristi erano sballottati di qua e di là, infatti è un po' lamentosa a volte la cultura ebrea, perché c'è sempre lì quanto ci hanno messo in culo, bla bla, insomma, no, scherzo, c'è una ragione, poveri, non è che sia. Però orgogliosi della loro, noi non siamo idolatri e io sono il Signore io tuo, non hai altro Dio fuori di me. Ricordate di avere Efeso, ma non c'è nei 10 comandamenti, però c'è uno dei comandamenti, è non ti fabbricherai un idolo. Quando Mosè sale sul Monte Sinai per farsi dare le tavole della legge, Dio gliele scrive con il ditino, come ci ha raccontato Cecil DeMille nel film, e torna giù e rompe la legge, perché si incazza, perché questi sono diventati idolatri, i suoi sono dimenticati e adorano il famoso vitello d'oro, che poi, il vitello d'oro, un'immagine, capito, una scultura, ah, maledetti, e gli tira le tavole in testa e fa rompe le tavole, quindi c'era questa componente, no, di auto celebrazione della cultura, componente che casualmente torna pari pari, non tanto nel cristianesimo quanto nell'islamismo. Attenzione però, perché il cristianesimo, noi ci dimentichiamo spesso che il cristianesimo, la cultura cristiana è iconica, iconofila, in modo massiccio, solo a partire da una certa epoca. Certo, ci sono immagini anche molto antiche, eccetera, eccetera, ma nei primi secoli del cristianesimo la cosa non viene decisa e l'origine ebraica di molti dei primi gruppi ristretti di aderenti a questa nuova, diciamo, religione fa sì che loro siano iconofobi, esattamente come erano, diciamo, gli ebrei. Il problema si pone a un certo punto nella storia della cristianità, si pone questo problema, e si pone esattamente nel IX secolo, nel IX secolo dopo Cristo, e si pone a Bisanzio, si pone in quella che sarebbe diventata poi il ramo cosiddetto ortodosso della religione, come sono i greci che sono cattolici e soprattutto i popoli slavi, russi, eccetera, eccetera. Ma prima ancora che ci sia lo scisma tra Oriente e Occidente, alla corte bizantina, mi sembra di Leone IX o Leone X, non mi ricordo che cosa succede, scoppia un dibattito, perché a quel punto si pone il problema, dice, ma possiamo noi costruire delle immagini che raffigurino non Dio che è vietato, ma almeno i nostri santi, la Madonna, Gesù Cristo, l'immagine. Si era già creata una sorta di immagine popolare, di immagine dei principali protagonisti, dei personaggi dei Vangeli, quindi di Cristo principalmente e anche dei 12 apostoli, ma anche di San Pietro, eccetera, eccetera. Ma non c'è una grande... non c'era una grande, se voi guardate, sì certo c'era già, se voi andate nel sesto, se andate a cercare il San Vitale a Ravenna, non veniva il nome del santo, San Vitale a Ravenna è una chiesa bizantina del sesto o settimo secolo e ovviamente c'ha questo grande, bellissimo, bellissimo, bello, è un mosaico con Cristo, con il Pantocratore, Cristo Pantocratore nella cupola della cosa, no? E quindi c'è l'immagine, vuol dire che le facevano le immagini, non è che non le facevano, però non erano così, o perché ce ne rimaste poche, o perché erano obiettivamente poche, in alcune zone d'Italia c'era, in alcune zone dell'Europa c'era questa tradizione, allora ce la facevano, però insomma scoppia il dibattito tra iconofili e iconoclasti, cioè tra sostenitori dell'immagine, iconofilia, amatori dell'immagine, e iconoclastia, cioè clash inglese, distruzione, clasto, distruzione dell'immagine. E per una breve fase prevalgono gli iconoclasti. L'Occidente cristiano ha corso il rischio di essere privati della sua storia dell'arte, e di avere una storia dell'arte ce l'avremmo avuta comunque, ma sarebbe un po' come quella dell'arte araba, cioè un po' più povera della nostra, insomma, obiettivamente. Non avremmo i grandi capolavori, non avremmo la Cappella Sistina, non avremmo tutte l'insieme di crocifissioni di Antonella Messina fino in giù, non avremmo tutte queste belle robe di Madonna, eccetera. Se avessero prevalso gli iconoclasti, anche il cristianesimo sarebbe stato una cultura come quella ebraica contemporanea, che escludeva l'immagine. L'immagine ha avuto così tanto peso per noi perché dopo qualche decennio, in quel famoso dibattito, non vinsero gli iconoclasti, e non ricordo più se Leone IX o Leone X, dichiarò, fu una dichiarazione per cui il culto delle immagini era ammesso. Era ammesso, era, diciamo, legittimo farsi delle immaginette e con, non prettamente con Dio, ma con Gesù Cristo, i Santi, la Madonna, eccetera, e venerarle, tributare un culto a queste immagini. Perché questo culto, c'è un'argomentazione molto, molto ampia sul fatto che queste immagini rappresentano, appunto, sono un ricordo, sono uno strumento per il fedele, per quello, per la persona più semplice, eccetera, eccetera, eccetera. Se voi pensate, cioè adesso voglio dire, insomma, forse estremizzo un po', ma insomma, da un certo punto di vista, la grande proliferazione di immagini nella cultura cristiana, a partire da quel periodo, cioè da quando vincono, da quando viene sconfitta l'iconoclastia, cioè l'opzione di non poter utilizzare immagini nel culto, è forse una delle componenti che spiega perché per un cristiano cattolico sia meno importante leggere la Bibbia di quanto non lo sia leggere il Corano per un islamico, o leggere la Torah, cioè l'Antico Testamento, per un ebreo. Perché la grande diffusione dell'immagine dava già sufficienti elementi, diciamo, di, come dire, indottrinamento, di formazione, se vogliamo usare un termine più neutro, del fedele. Il fedele si formava guardando gli affreschi o i quadri dentro la chiesa e ascoltando il prete che predicava e che gli raccontava e che gli leggeva dei pezzi scelti del, come dire, Vangelo. Quando la riforma protestante nei primi decenni del XVI secolo, con Lutero, prende forma e poi si diffonde dalla Germania in tutto il centro e il nord Europa e poi in tanti altri posti, uno dei punti sui quali Lutero insiste di più è quello della lettura della Bibbia, perché già nel 500 la pratica della Bibbia non c'era praticamente, e continua adesso a non esserci. Ditemi voi quanti nelle vostre famiglie, quante Bibbie ci sono, o se ci sono delle piccole edizioni ridotte, così, ma nessuno legge la Bibbia nelle case cattoliche, nessuno legge la Bibbia. Si conoscono le storie perché se ne ha raccontate, eccetera, ma non, infatti, se uno può leggere la Bibbia scopre tutto un mondo, perché è molto diversa dalla semplificazione che ce n'è tanto in tanto, è piena di storielle piccanti, piena di sesso dall'inizio alla fine, ci sono esseri piena di sesso, gente che scopa, fanno le cose, vogliono pure scoparsi gli angeli. Vedete, la cosa di Gomorra è bellissima, arrivano gli angeli, sono due angeli mandati da Dio, perché Lot le fa, ma non se ne può più, quei sodomiti fanno quello che vogliono loro, bla bla bla, sono tutti così, allora gli manda due angeli, come quelli sono, ma vedono gli angeli, vogliono, siccome sono belli, sono due bei ragazzi, vogliono farceli subito. Ma se lui sapeva come va la cosa, non lo sapete, questo nessuno, perché non viene detta ai cosi. Allora Lot arriva, salva i due angeli, dice cazzo, veramente li sottrae alla folla che sta cercando di diciamo, sequestrarli per avere commercio, diciamo, carnale, sessuale con loro, li chiude in casa, e però la popolazione di Sodoma assedia la casa di Lot, perché vuole gli angeli. Allora Lot cosa fa? cosa fa Lot? Gli offre le figlie, dice, vabbè, guarda, non dire perché si dice il cazzo, se qua mi inculano pure gli angeli sono, siamo fottuti, dice qua Dio, che cosa gli vado a dire poi a Dio? Che era l'unica persona che era posto con Dio, era lui, dice, però dice, non può questo qui mi manda gli angeli e io pure glieli faccio inchiappettare dai cosi, dice, non posso. Allora non posso, perché sennò dice mi rovino, e dice così, dice mi rovino meglio le figlie, quindi gli offre le figlie. Le figlie tanto prima o poi dovrà capitare, certamente, Dio dice meglio, ma quindi Lot offre le sue figlie alla coppia e Dio non, diciamo, come dire, Yahweh non muove un ciglio, gli va bene così, cioè, poi vabbè, certo, tanto poi sapere che la distrugge quella città lì, perché mi avete rotto le scatole, dice, basta con il movimento di liberazione omosessuale, che poi non è che erano tutti quanti froci a Sotto, ma erano solamente bisessuali, cioè scopavano, gli andava bene, diciamo, erano molto tolleranti dal punto di vista della tutto lì. Dopodiché vabbè, distrugge lo stesso la città, come tutti quanti sapete. Ma di questo è pieno il cosa, è Davide e Bezzabea, cioè pieno, cose che si sanno dopo, perché qualche pittore ogni tanto l'ha fatta, Susanna e i vecchi, queste cose qua si sanno di più. Ma beh, il Cantico dei Cantici è una specie di poemetto pornografico, insomma, in cui si descrive una anatomia femminile con dovizia di particolari, dai capezzoli al Monte di Venere, in modo. Poi vabbè, dice, ma questa è una cosa allegorica per dire quanto è bello il mondo o quanto è buono il Signore. Dice, va bene, però c'è un'allegoria piuttosto vivacina qua, dice, ma no, va benissimo, figuriamoci, però sono. È che secondo dire, la cultura ebraica è meno sessuofoba di quanto non lo sia poi diventata quella cristiana, perché il vero fondatore del cristianesimo era un sessuofobo, era non il povero Cristo che non c'entra nulla, ma San Paolo è lui il vero fondatore del cristianesimo, e San Paolo era veramente sessuofobo, tutte queste cattiverie che dice il fatto che le donne devono andare velate in chiesa, sapete perché, no? Beh, è la stessa storia per cui devono portare delle cose, perché? Dice, perché? Ma questo San Paolo lo scrive perché le donne, perché i capelli sciolti delle donne in chiesa creano turbamento nella parte maschile, ma tu pensa, ma uno cioè poteva avere la roba di scrivere queste robe qua, sono scritte nelle sue lettere, dice, ora se non era uno disturbato questo, dai cazzo, su. E quindi allora per questo le donne in chiesa devono portare il velo, non devono fare dei capelli, queste robe qua, insomma. Quindi la sessofobia del cattolicesimo viene del nazismo, perché i protestanti sono sessofobi uguali, non cambia tanto da questo punto di vista, proprio il cristianesimo in quanto tale. Allora quindi, ma comunque, nel IX secolo vince l'iconofilia, cioè viene sconfitta l'iconoclastia, e quindi la cultura, quindi il cristianesimo e quindi per questa via, insomma, la cultura occidentale diventa una cultura in cui l'immagine ha avuto tutto questo peso. Però in qualche maniera la polarità tra la parola e l'immagine rimane. Diciamo che sino all'avvento della televisione, neanche il cinema cambia tanto da questo punto di vista. Si può dire che sino all'avvento della televisione, in qualche modo, l'equilibrio che si crea tra i ruoli rispettivi della parola e dell'immagine nella cultura occidentale sono i seguenti. Molto rozzamente, in maniera molto semplificata, eccetera, ma in qualche modo. La parola parlata, ma soprattutto scritta, da quando c'è ovviamente la scrittura, quindi stiamo parlando sempre di cose, di eventi successivi all'invenzione della scrittura. La parola parlata, ma soprattutto scritta, è lo strumento, il mezzo, l'ambito nel quale si creano, diciamo, nel quale avvengono i principali fenomeni di creazione del senso. Il senso di una cultura, della vita, il senso, cioè ciò che significa, i significati di fondo, i valori, quelli che potremmo chiamare i valori, quelli che potremmo sono affidati alla parola. Non potrebbe essere diversamente, per quanto particolare, per quanto tollerante nei confronti dell'immagine, il cristianesimo è comunque sempre una religione del libro, una religione della parola, del logos greco. E quindi in qualche maniera è questo lascito, questa eredità platonica che rimane dentro il cristianesimo. Il Vangelo di Giovanni, sapete tutti, comincia: in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Addirittura l'identificazione di Dio, cioè dell'essere che ha creato il mondo, che lo domina, eccetera, con la parola. Dio è parola per il Vangelo di Giovanni. Quindi non è ovvio che la parola deve essere quella che ha da, che dà. Quindi la parola è il mezzo principale con il quale si dà un senso al mondo, quindi con il quale si stabilisce il criterio di valore e con il quale si comunica meglio anche questo genere, diciamo, di cose. Che la parola rimanga, la parola e la scrittura rimangano l'elemento fondamentale, diciamo, delle classi colte, questo è ovvio, è vero anche per gli ebrei e per gli islamici, è vero anche per tutte le altre culture, questo è ovvio, perché la scrittura è una delle sue. Ma, diciamo, da un certo punto di vista, la parola parlata, perlomeno la parola parlata, poi nella seconda versione, forse non occorre leggere, non occorre che tutti leggano la Bibbia, però tutti almeno devono avere rapporti con quel mediatore fra la comunità di fedeli e Dio, che è il sacerdote, che la Bibbia l'ha letta e che, diciamo, ce la racconta a noi. Poi in altre invece religioni deve essere il singolo che legge la Bibbia, per il, con il cattolicesimo meno, ma diciamo, comunque, siccome il cristianesimo comprende sia il cattolicesimo che altre robe, diciamo generalmente il ruolo, questo è il ruolo della, come dire, parola. In particolare per le zone cattoliche, poi, cioè per quelle in cui dopo la riforma protestante si costruisce la come dire, modernità, all'immagine viene però delegato un altro compito, che è un compito che essa, l'immagine, non ha esattamente nelle altre culture, non ha come ce l'ha nella cultura dei paesi, diciamo, cattolici, e un po' più in generale cristiani. Se la parola parlata e scritta è lo strumento che dà il senso al mondo, quindi che stabilisce le regole di base della, non solo del rapporto dell'uomo con Dio, ma anche dei rapporti dell'uomo con se stesso, l'immagine diventa invece lo strumento privilegiato con il quale la parola penetra all'interno della maggioranza della popolazione. L'immagine diventa, insomma, uno strumento di emozione, di comunicazione immediata, di propaganda, diciamo pure di propaganda della fede o dei valori fondamentali della fede, più forte della parola. Teniamo conto che quando noi diciamo la parola, parliamo sempre della parola parlata. La scrittura, sino alla metà dell'Ottocento, anche nell'Occidente, è una pratica di élite. La condizione normale del popolo, dall'epoca dell'invenzione, delle prime invenzioni della scrittura, sino a circa metà dell'Ottocento, è che la maggioranza del popolo non sa leggere e scrivere. Ovviamente l'invenzione della stampa a metà del 400, 1450 circa, ha cominciato a cambiare le cose, ma ci sono voluti due secoli prima che la stampa dispiegasse totalmente i suoi effetti e quindi creasse un aumento molto maggiore, quindi facesse in modo che la maggioranza della popolazione sapesse leggere e, diciamo, scrivere. Se no, la condizione generale è una condizione di analfabetismo. E quindi solo quelli che sanno leggere possono leggere la Bibbia, e poi te la raccontano a te parlando, quindi la parola conserva la sua centralità, ma è la parola parlata, è la parola del mediatore, del prete, del sacerdote, il quale media tra te e Dio, costruisce, facilita questo rapporto fra te e Dio, E per fare questo che cosa utilizza principalmente? Utilizza principalmente l'immagine, cioè le grandi cattedrali romaniche, ma soprattutto gotiche, quando poi sono questo, sono una specie di gigantesco repertorio di immagini scolpite, in un contempo più scolpite che non dipinte, poi a poco a poco la pittura aumenta il suo ruolo, ma insomma scultura e pittura insieme. Le chiese sono dei formidabili concentrati di immagini in cui il fedele analfabeta arriva lì e non solo sente la parola del sacerdote, ma guarda i muri, guarda le cose e vede le pene dell'inferno, le beatitudini del paradiso, il volto dei santi. E contemporaneamente vede anche tutto questo, vede anche scene di vita quotidiana, nelle pale d'altare, nelle pale d'altare in genere quando sono o nei grandi cicli di affreschi, anche quelli di Giotto ad Assisi, prima di Cimabue, poi di Giotto in grande, o le pale d'altare più in piccolo. Le storie dei santi sono dei piccoli concentrati, una specie di enciclopedia della vita quotidiana di quel periodo. Si vedono le città come erano nel XI, XII, XIII, XIV secolo, si vedono i mercanti come si vestivano, si vedono le abitudini, come si faceva al mercato, come vivevano in famiglia, le annunciazioni, se voi paragonate le varie annunciazioni dalle primissime di, non so, Crivelli, fino poi dopo Beato Angelico, eccetera, eccetera, e guardate, avete, è un concentrato, una piccola enciclopedia dell'interior design dell'epoca, come erano fatte le stanze nelle case, no? Come erano poi, quando ovviamente con la pittura protestante fiamminga nel 600 la cosa diventa, ma già anche prima c'era questa cosa, insomma. Quindi allora capite com'è, c'è una sorta di divisione dei ruoli. La parola è quella che assicura i significati fondamentali della società, per sapere bene cosa vuol dire la società, cosa conta, cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa è importante, è, diciamo, la parola, quello che conta è la parola. Ma l'immagine è lo strumento attraverso il quale la parola si diffonde e arriva largamente. Allora, possiamo dire da un certo punto di vista, quindi, che c'è? Possiamo dire, da un lato, un predominio, un dominio, un dominio, insomma, strategico della parola sull'immagine. Cioè, la parola è più importante dell'immagine dal punto di vista della fissazione dell'importanza sociale dei, contenuti. La parola vuol dire, ovviamente, quella scritta come origine del, come dire, messaggio, e poi la parola parlata come traduzione della parola scritta. Quindi già nella parola parlata c'è un primo adattamento, in qualche modo, piccolo ma c'è, ma soprattutto la cosa più importante è avere, a livello dell'immagine, perché qui ci stanno i significati, la fissazione dei significati, diciamo il senso della vita, della storia del mondo. Qua c'è la comunicazione, parte anche la parola parlata naturalmente, ma la combinazione tra parola parlata e immagine assicura la comunicazione, cioè dal punto di vista sociale, cioè la diffusione al più vasto numero di persone possibile di questa cosa. Attenzione, adesso mi fermo un attimo perché quando parlo di Paolo anch'io sono stanco e voi anche sarete stanchi. Tutto questo però funziona, cioè questo equilibrio tra la parola e, diciamo, l'immagine, funziona sino a che la parola sia una, non di commercio, insomma, sia una fattispecie, un evento relativamente raro, la prova scritta, c'è solo un libro che conta, è solo la Bibbia, quindi è molto ristretta la base della parola, no? Si scrivono tanti libri, però quello che conta fondamentalmente è poi solo la Bibbia. Il parlato della Bibbia è già un po' più abbondante, ma è sempre ancora, diciamo, da un certo punto di vista è ancora abbastanza limitato. Ma è limitata anche la produzione di immagini. Per fare un quadro, o scolpire una statua, o costruire una cattedrale, ci vogliono persone in grado di farlo, e sono poche, non sono tante quelle che sanno. Poi ci vuole tempo, cazzo. Non è che uno va lì, ciao, fa quello bello. Cioè, 2 mesi, 3 mesi, un anno di lavoro, quel cazzo che sia, scalpello, roba, cioè, dipingere un quadro, farlo bene, c'è una bella Sistina, quanti anni ci ha messo? Mi per fare, 3 o 4, 5 di più, di padre che mi cacciate. Cioè, no? Parliamo sempre di oggetti, di prodotti rari. C'è una rarità sia della parola scritta che dell'immagine. E anche della parola parlata, che la parola parlata si basa sulla scritta, insomma, quindi più di tanto non si può dire. La relativa rarità sia della parola che dell'immagine, a lungo, non dico che nasconde, ma depotenzia la forza dell'immagine. Qual è la forza dell'immagine? Come abbiamo detto prima, è quella di avere un codice di comprensione più immediato di quello della parola. Si capisce un'immagine anche, qualsiasi immagine si capisce, c'è almeno un livello di comprensione immediato. Guarda, cos'è questo? Quella è una che sta andando a lavare la biancheria alla fontana. Chi è quello? Quello è un pastore che poi ci saranno tutte l'allegoria, c'è il prete che te le dice, ma intanto cos'è quell'immagine lo capisci tu, anche se sei un beota deficiente, guardi quello, capisci. Le parole, non sempre, per capire le parole ci vuole già un po' più, si capiscono anche quelle parole, però ci vuole, se uno costruisce un discorso più complesso, quindi l'immagine, però l'immediatezza dell'immagine, fino a che l'immagine è rara, non può giocare un ruolo molto molto importante. Gioca un ruolo importante nella comunicazione, nella diffusione, diciamo nella propaganda, voglio dire, va bene, ma limitatamente. Ma che cosa succede quando da un certo punto in poi della storia si inventano dei procedimenti per cui le immagini sono così, ho fatto un'immagine, questo no, ma ho fatto un'immagine, ho fatto un video, la fotografia rivoluzionerà questa cosa, perché la fotografia e tutte le tecniche che successivamente sono venute dopo, quindi prima il cinema, poi la televisione, poi le immagini, quindi la televisione, l'immagine elettronica, quindi l'immagine chimica fissa e in movimento, l'immagine elettronica e poi l'immagine digitale che le raccoglie tutte e due, più o meno altera una delle condizioni che avevano retto sino a quel momento l'equilibrio tra la parola e l'immagine, che era la relativa scarsità dell'immagine. L'immagine era potentissima ma era scarsa, ne erano poche. Ci voleva un casino di tempo per produrla. Era difficile spostarle, alcune di queste immagini non si spostavano mai, le sculture le fai, le metti lì, non le sposti più. Un affresco, affresco un muro, non lo sposti, un quadro non lo puoi spostare. Quindi sono rare, fisse, stanno lì, non si muovono. Quando cominciano ad apparire delle tecniche relativamente semplici, adesso a noi ci pare che le prime fotografie erano complicatissime e rispetto alle foto che fanno i telefoni cellulari chiaramente lo sono, ma non già fare un daguerrotipo, già tenere una persona lì un minuto e mezzo, due minuti, tre minuti davanti a una lastra, per una lastra, era un cazzo rispetto a quello che stare lì settimane e settimane in posa col tipo che faceva il quadro, cioè già quello, basta. Quindi l'abbondanza delle immagini e la relativa facilità di posizionare, quindi l'apparizione di procedimenti automatici, per esempio, quando si cominceranno a produrre immagini automatiche, e anche lì, sino a che queste immagini saranno confinate su certi supporti, la carta fotografica, prima il daguerrotipo, poi il corpo, la carta fotografica, poi e vabbè, cioè, ok, c'è lì però le fotografie, però c'ho solo l'album delle foto, però il giornale, per esempio, non si può andare. Quando si inventano le tecniche di stampare le fotografie sulla carta qualunque, comune, patinata, ma per cartaccia, insomma, quindi quando nascono i rotocalchi, e nascono poco prima del cinema, i rotocalchi, questo sarà il passo successivo. I rotocalchi saranno il vero momento in cui l'immagine si diffonde, poi ovviamente con la televisione non se ne parla, immagini non solo fisse ma in movimento, e non solo sulle pagine di un giornale ma nel giardinello di casa tua, e c'hai tutte le immagini che vuoi. Allora, l'attuale abbondanza, per non dire sovrabbondanza, per non dire eccessiva abbondanza, l'attuale facilità di produzione di immagini e l'attuale abbondanza di immagini cambiano molto le cose, e come cambieranno lo vedremo nell'ora successiva.